ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Coração e dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. Coração e dinheiro. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Put your flags up in the sky. Insomma, l'abbiamo beccata anche noi, d'altronde c'era da aspettarselo, di questi tempi è inevitabile, è molto contagiosa, anche se assolutamente priva di rischi, è la febbre dai mondiali che ha contagiato anche me, Deborah, che lo sai, io non sono assolutamente interessata al calcio, ma quando gioca l'Italia mi trasformo un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde e divento tifosissima. E beh, un po' come tutti, allora, a me è presa un po' davvero perché senti che gola stamattina. Comunque, avete tifato anche voi per la vostra squadra del cuore? Vi siete emozionati, vi siete agitati davanti alla TV, avete urlato per un gol o un passaggio sbagliato? Cara la mia Nicoletta, questi sono giorni caldi per tutti gli appassionati, anche per i calciatori poveretti per la verità in Brasile, per tutti gli appassionati in particolar modo del calcio da divano. Notte mondiale, 15 milioni svegli per gli azzurri, Prandelli una partita epica, ora il Costa Rica. Partita e divano, binomio imbattibile, anche perché il Brasile non è proprio dietro l'angolo e senza considerare il viaggio, i biglietti delle partite vendute sul sito della FIFA hanno prezzi che vanno dai 66 ai 128 euro per il girone, mentre per la finale si possono superare i 700 euro, questo senza prendere in considerazione il cosiddetto mercato secondario, non proprio lecito. Ma mettendo da parte il sogno di vedere una finale del Mundial dal vivo, queste settimane potranno accendere una passione per gli abbonamenti della Pay TV che ci permettono di vedere i mondiali oggi e domani, o meglio fra qualche mese, di seguire anche la nostra squadra del cuore. Ma quanto ci può costare? Come trovare la soluzione più adatta a noi? Parleremo oggi anche di sport e TV a cuore denari. Voi diteci come e quanto guardate lo sport in televisione e soprattutto quanto pagate. 800 24 00 24. Ma c'è chi fa di più, c'è chi il calcio non solo lo guarda ma lo gioca, sono quelli del calcetto calciotto del lunedì o del giovedì che sia. Se siete all'ascolto chiamateci e diteci se sul campo l'effetto mondiale si fa sentire o se invece sentite più il caldo, anche se per fortuna il meteo dice che avremo almeno una settimana di fresco. Chiamateci però per favore, perché gli esperti sono già in agitazione, temono che i mondiali giochino brutti scherzi a chi si lascia prendere un po' la mano e quindi invitano a usare più la testa che i piedi. Ma ci facciamo spiegare tutto dal nostro esperto, il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico a Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico del Milan nella stagione 2010-2011, quella dello scudetto per intenderci. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Corazon e Gineiro. Mi piace moltissimo. Mi piace. Hai sentito come è stato attento? È stato attento. Praticamente non ne avete più vinti di scudetto. E purtroppo no. Via il dottor Melegatti. Anche tu. No, io era un complimento per lui. Via lui, via lo scudetto. Cioè, no, arriveranno. Allora, dottore, ci dica intanto subito se anche voi come medici siete in stato di agitazione perché temete che i mondiali possano mettere a rischio le caviglie dei giocatori amatoriali e quindi affollare un po' i vostri ambulatori, i vostri studi. Ma questo è un po' ricorrente. Sì. In occasione di europei e mondiali c'è un incremento purtroppo di giocatori amatoriali che affollano i nostri pronti soccorso, proprio perché cresce la febbre e cresce la voglia di farsi una partita tra amici, e non sempre queste partite tra amici finiscono con la pizza e col sorriso. Finiscono in pronto soccorso, sì, però le ho fatto un po' la battuta sullo scudetto, perché lei è un cuore rossonero e immagino che seguirà con particolare attenzione le gesta di Abate, De Sciglio, Balotelli, che sono dei giocatori di cui anche e soprattutto in questo mondiale si parla molto per ragioni diverse. Sì. Perché non so se sai, Deborah, però so, Abate sì, sembra che insieme gli è successo, sta benissimo, ma insieme a Ronaldo e Olivier Giroud, sì, è considerato uno dei giocatori più sexy di questi mondiali. Vabbè, io e i miei gusti non corrispondono a questi, ma prendiamo atto. Lei lo sapeva, dottor Melegatti? No, non lo sapevo, conosco bene Ignazio Abate, la cosa mi fa sorridere. So che è molto molto simpatico, così bello, non l'avevo mai inquadrato. Allora, su internet dicono molto sexy, che è una cosa diversa dalla bellezza. Certo. Si vede che ha delle doti. Lanciamo il sondaggio fra le nostre ascoltatrici. Brava, subito 349-238-6666, diteci qual è per voi il giocatore più sexy di questo mondiale. Balotelli lo escludiamo perché ormai si sposa. A me la barba di Pirlo è per me, è lui. 800-24-0024, dicevo Abate, ma fa discutere anche Balotelli. Eh sì, perché ne hanno parlato tutti i giornali e soprattutto chi segue Twitter, un po' il social network, è impazzito a riprova della fama mondiale di Super Mario, perché è prossimo alle nozze, le ha annunciate naturalmente in questo modo. E poi abbiamo, dottor Melegatti, De Sciglio. Sì. Ma poveraccio, voglio dire, no? È come il bambino che gli viene l'indigestione alla vigilia della sua festa. Poi è un ragazzo fantastico, un calciatore strepitoso, e purtroppo ha avuto una stagione non fortunata. Allora, sentiamo che cosa ha detto in conferenza stampa il medico della nazionale, Enrico Castellacci, e poi commentiamo insieme. De Sciglio ha avuto questo edema al bicipite femorale, quindi una sofferenza del muscolo, senza però che dalla risonanza magnetica che abbiamo effettuato siano trapelate lesioni a livello delle fibre muscolari. Questo quindi anche per lui ci pone una nota di ottimismo, nel senso che speriamo quanto prima di poterlo recuperare. Dottor Melegatti, anche Buffon, no? C'è questo infortunio alla caviglia. Sì, una cosa diversa rispetto a quella di De Sciglio, perché Buffon ha avuto, pare, una distorsione di caviglia e con interessamento legamentoso, e fortunatamente credo che anche per lui però ci siano buone possibilità di recupero anche in tempi relativamente brevi, insomma. Insomma, hanno le caviglie un po' fragili. Perché mi diceva Laura, io questo non lo sapevo, Laura Vanossi, che il fisio, infatti è lì che mi ha detto, oddio che cosa ho detto, che il fisioterapista della squadra inglese, esultando per il gol, si è stortato anche lui la caviglia. Sì, dottor Melegatti, grave purtroppo, perché pare che abbia messo il piede su una bottiglia e si sia provocato una lussazione della caviglia. Quindi non c'è niente da ridere. Dov'era la bottiglia, tra l'altro? Lì in panchina? Era lì probabilmente. Ma santo cielo. Allora, 800-24-0024, c'è qualche ascoltatore che condivide o ha condiviso lo stesso destino di De Sciglio, Buffon? Vi siete infortunati, strappati, rotti, giocando a calcio, calcetto, calciotto, com'è andata? Oppure vi state sposando, come Balotelli? Oppure ancora quando scendete in campo avete frotte di ammiratrici a fare il tifo per voi, come succede ad Abate, oppure a Pirlo, perché Deborah è una grande fan di Pirlo. Anche perché... Elisa, che ci scrive al 349-238-6666, condivide con me questa visione sexy di questo giocatore. Ore 20. Sette maschiacci brutali fuggono dai loro comodi uffici e si ritrovano sul campo di battaglia. Cioè, ma voi veramente il calcio vi ha proprio tarlato il cervello, ma fin da piccoli, eh? Qualcosa viene in attacco, che ci scopriamo! Siamo messi d'accordo, lo fanno tutti, anche i più grandi, a una certa età si va dietro, l'ha fatto Di Bartolomei, Di Biagio, Matteus, Scandellari, no? E chi è sto Scandellari? Il libero della bovina carne. Sei ultimo uomo, non devi dribblare. Scusa, vabbè, ho provato un numero, non siamo qua per divertirci. E allora calcetto, calciotto, calcio a 11, calcio da divano, che giocatori siete? Dottor Melegati, la palla è una, ma i giocatori sono tanti e diversi. Proviamo a tratteggiare qualche profilo? Sì, certo, e naturalmente lo scenario di chi gioca a calcio è talmente ampio. Esistono, parlando del calcetto, che è veramente un fenomeno di massa, è un fenomeno sociale. Adesso ci sono naturalmente ci sono i dilettanti, ci sono persone che sono iscritte alla federazione, alla divisione calcio 5, quindi queste sono persone che fanno, che giocano a calcio a 5 in maniera voglio dire in maniera importante, con allenamenti, con gare regolari, per poi c'è tutta la massa delle persone che va a giocare a calcio a 5, a calcetto il lunedì oppure durante la settimana senza allenamento, quindi con il solo scopo di divertirsi. Come dicevo prima, purtroppo però la maggior parte di queste persone non sono persone particolarmente preparate a uno sforzo che può diventare anche uno sforzo importante, perché il gioco del calcetto non è banale, il calcetto richiede uno sforzo importante. È un'attività di tipo intermittente, noi lo consideriamo, vale a dire un'attività che prevede fasi di alta intensità e fasi di intensità più bassa, durante le quali ci si può recuperare. Però durante le fasi di alta intensità, ecco, bisogna essere preparati per evitare spiacevoli inconvenienti come traumi distorsivi, come lesioni muscolari. Anche perché poi a farne le spese siamo noi, le vostre compagne, perché la mettete sempre così giù, così dura, dottor Melegati, cioè adesso dica la verità. No, ha ragione, però insomma non è piacevole tornare a casa con un muscolo allungato, con una lesione muscolare oppure con una caviglia gonfia e l'indomani dover andare a lavorare, per cui ecco, io consiglio un po' di cautela e una preparazione adeguata, perché poi veramente poi il piacere finisce. Se no vostra moglie è autorizzata a dirvi: ma stai a casa, guardala la partita, esatto, non giocare più a calcio è divano. Un peccato, perché il calcetto, come altre discipline sportive, oltre che fonte di divertimento, può anche essere un'attività sportiva utile alla persona, a patto che ci si prepari, ecco. Alessandro da Latina ci scrive: io mi sono distrutto l'omero giocando a braccio di ferro, vale lo stesso? 800 24 00 24, diteci che tipi di sportivi siete, se siete sportivi da divano, invece giocate a calcio, calcetto, calciotto, se vi state preparando, se vi è venuta la voglia di nuovo di scendere in campo proprio vedendo i mondiali. Noi siamo qua in attesa delle vostre telefonate, raccontateci anche come vi preparate, se vi preparate adeguatamente o se fate solamente il tifo sul divano. Però a proposito di tifo, in TV o davanti proprio allo stadio, come dire, la passione si sente, ma la passione per la squadra del cuore non è sempre amica della salute del cuore. Ne parliamo con la dottoressa Giovanni Luini, medico e responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO. Buongiorno dottoressa Luini. Buongiorno a tutti. Chi è il giocatore più sexy del mondiale secondo lei? Perché noi abbiamo lanciato anche questa domanda parallela. Chiaramente la domanda presuppone una risposta di carattere scientifico e professionale, dottoressa Luini, mi raccomando. Dal punto di vista scientifico, siccome non so chi giochi in nazionale, vi dico Balotelli, perché so che lui c'è, però non ho idea di chi siano gli altri. Beh, quindi... Anche a me, fisicamente è un bel pezzo di ragazzo, non si può dire nulla. Allora, vedete che ho detto una cosa non così insensata. Possiamo approfittare per salutare Cristina, che è la sorella di Mario, che ha lavorato a lungo qui a Radio 24 con noi. Certo, che ne dici? Saluti a Cristina. Allora, dottoressa Luini, invece parliamo di tifo per la squadra del cuore e degli effetti di questo tifo sul nostro cuore. È molto interessante, perché gli sportivi da poltrona qualche volta impegnano anche il loro cuore in modo notevole. C'è uno studio, tra l'altro pubblicato dal New England Journal of Medicine, quindi un grosso giornale. Non è proprio la robina. Esatto, che dice che nell'area di Monaco di Baviera, dal maggio al luglio 2006, sono stati ricoverati 4.279 uomini e donne per un attacco di cuore. E questi attacchi di cuore erano molto più frequenti rispetto ad altri anni senza i mondiali di calcio, perché il punto era proprio il mondiale. A quanto pare questi tifosi avevano un maggiore rischio di infarto perché seguivano con un particolare pathos le partite, peraltro da casa o dallo stadio, quindi non erano atleti che si sentivano male, erano sportivi da poltrona che avevano aritmie, angina o attacco di cuore in conseguenza del pathos con cui seguivano la partita. Quindi dato interessante. C'è anche da dire che però bisogna chiedersi, secondo me, che cosa mangi una persona mentre guarda la partita, perché non so se avete notato, ma in questi giorni nei social network c'è gente che fotografa addirittura il proprio menù mentre guarda la partita. C'è veramente da preoccuparsi, perché è come se la partita attivasse tutto ciò che noi non possiamo fare durante l'anno, e quindi si mangiano cose veramente improbabili. Quindi ho il sospetto che questi attacchi di cuore siano legati anche alla dieta durante la partita, sul divano peraltro. Sabato 18 alle ore 20:25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. E appunto anticipava la dottoressa Luini. Però dottoressa Luini, abbiamo parlato di tifo e cuore. Sì, il tifo, bravo, non è una solamente una questione di cuore o di pancia, sì. Ma anche e di testa. Sì, non possiamo colpevolizzare eccessivamente il tifo, perché esistono invece degli studi che dicono che per esempio il tifo sportivo, cioè questo studio che parla di tifosi di basket, a quanto pare attraverso la risonanza magnetica funzionale, che è un esame che vede quali aree del nostro cervello si attivino in conseguenza di qualche cosa, allora questi studiosi americani hanno visto che i tifosi di basket, quando assistono alla partita della squadra del cuore, hanno un'attivazione del cervello che è quasi globale. Pensate che si attiva l'amigdala che governa le emozioni, si attiva l'ippocampo, cioè la memoria, si attiva la corteccia prefrontale che fa scattare l'empatia nei confronti dei giocatori in campo. Insomma, il cervello funziona e funziona tanto facendo il tifo, quindi non è poi così male tifare per una squadra. Mi veniva in mente il mio amico americano che quando guarda il Super Bowl con suo figlio, ogni tanto è praticamente un parente di una mia amica, ci manda delle foto e si piazza lì davanti alla TV con queste, con questi contenitori di ali di pollo fritte che tipicamente appunto si mangiano là, e io non so cosa diventi il colesterolo in quelle fasi. Dottoressa Luini, prima di salutarla però diamo anche una buona notizia, perché parlare di calcio fa bene, quindi oggi a Cuore Denari produciamo e attiviamo benessere. In che modo? C'è un'altra ricerca della California, dell'Università della California, che salva tutti i nostri CT nazionali. Sapete che ormai l'Italia è fatta da CT durante i mondiali, no? Siamo tutti bravi. Allora, parlare di calcio, a quanto pare, attiva le aree cerebrali del linguaggio, ma anche ci aiuta a pianificare, elaborare strategie, controllare attività motorie. In conseguenza di tutto ciò, pensate che potremmo capire anche meglio fisica, matematica e filosofia. Tutto questo improvvisando CCT. Ma dai, fantastico! Perfetto, allora per la prossima partita io e te facciamo la formazione. Assolutamente. Te lo dico già, anche lei, dottoressa Luini, è coinvolta. Va bene, d'accordo. Io mi faccio un po' suggerire dal dottor Melegatti, perché quando dicono dovevano andare più in avanti, c'era la riserva, cosa dite, dottor Melegatti? C'era la difesa un po' morbida, moscia, come si dice? Non è un linguaggio proprio calcistico. Vabbè, dai. Ma il dottor Melegatti mi capisce. Un bacio alla dottoressa Luini. A presto, grazie. Abbiamo Luca da Padova e Giovanna dalla provincia di Viterbo. Direi però di dare la parola a Giovanna. Noi siamo qua sempre delle sponsor dei Cavalieri, per cui Giovanna, buongiorno. E naturalmente le nostre ascoltatrici si sono subito fatte coinvolgere dal nostro sondaggione sui calciatori più sexy di questo mondiale. Sì, mi sono infatti molto coinvolta con tutto il calcio nella nazionale, e devo dire i miei preferiti li trovo belli e sexy: Pirlo e anche Buffon. Brava, anche Buffon ci piace. Sì, molto. Sì, tra l'altro altri due dei un quali un bel tenebroso, mamma mia, guardi, ha uno sguardo pazzesco, però uno sguardo degli occhi eccezionali. Hanno fatto parlare un bel po' anche loro le cronache rosa ultimamente, Buffon per le cose che sappiamo, Pirlo per una separazione che gli è costata tantissimo, qualcosa come 55.000 euro al mese, Nicoletta. Perché non l'abbiamo sposato noi? Ma che ne so, guarda, mamma mia. Dottor Melegatti, adesso facciamo i seri, perché il dottor Melegatti dice, ma dove sono finito? Esatto. E abbiamo una domanda già subito di un nostro ascoltatore che ci è molto preoccupato, perché in un contrasto a calcio ha riscontrato una lussazione al mignolino del piede, quando dico che gli uomini si lamentano. Gli hanno detto che non si può fare nulla, però rimane gonfio. Cosa posso fare? Ci scrive Matteo da Mantova. Non hai mai sbattuto in un divano? Sì, però io sto pensando alla compagna di Matteo da Mantova, che non c'è, però, perché ci ha scritto al 349-238-6666. Dottor Melegatti. Ma deve solo avere pazienza e recupererà totalmente. L'importante è dar retta ai sintomi, evitare il carico per qualche tempo, mettere magari qualche antinfiammatorio locale e aspettare che il tempo faccia la sua parte. Insomma, non si parla di frattura, per cui sicuramente guarirà. Ecco, Luca, buongiorno da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'intervento. Io vorrei giocare a calcetto anche, ecco. Però una calcificazione che si è creata con le maratone nel tendine d'Achille destro, ecco. Ho fatto un ciclo di terapia d'urto, ma mi sembra che non sia servito a nulla. E quindi deve rimanere deve rimanere in panchina. Ci pensiamo intanto, anzi il dottor Melegatti non ha bisogno di pensarci, ma ve lo raccontiamo dopo i mercati. Cuore e denari. Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross, doppio passo, rima dei poeti, finta e tiro rosa terra per un pelle gol. Stop al volo, zona Cesarini. La grande Mina si è cimentata con un brano, colonna sonora di questi mondiali. Siamo stati contagiati anche noi dalla febbre da campionati del mondo di calcio. Una ricca puntata in cui vi stiamo parlando di calcio dal punto di vista del cuore e dei denari. A questo proposito, continuate a chiamarci e a scriverci per raccontarci come guardate le partite dei mondiali. Se Pirlo, lo sguardo peccaminoso nei confronti dei giocatori, almeno nei confronti dei più sexy. Raccontateci anche se avete un abbonamento ad una Pay TV, se vi affidate ad un operatore per guardarle da un dispositivo mobile. Sono proprio lontani, Nicoletta, i tempi delle radioline all'orecchio, no? Probabilmente sono i tempi nostri, ecco. 800 24 00 24. Oggi vi portiamo in Brasile a modo nostro, parlando anche di questo, ma non solo. E come donna di denari non potevo tralasciare gli aspetti economici del Brasile come economia emergente, uno dei cosiddetti BRIC. Come va questa economia? Conviene investire e come in questo paese? Parleremo anche di questo dalle 11.45, restate con noi. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Melegatti, pronto a rispondere alla domanda di un nostro ascoltatore che vorrebbe giocare a calcetto ma deve restare in panchina per via di una calcificazione al tendine d'Achille. Dottor Melegatti. Io a Luca consiglio di non intraprendere il calcetto fino a che non ha risolto il suo problema, perché il problema può essere un problema importante, così come le sollecitazioni del calcetto sono da non sottovalutare, e avere un problema proprio lì nella sede che ci ha riferito, vale a dire all'inserzione del tendine d'Achille, può creare problemi. E quindi se le onde d'urto non sono state efficaci e se immagino la fisioterapia non è stata efficace, consiglio magari di rivolgersi a un buon specialista per un intervento chirurgico. Poi recuperare bene forza, flessibilità, prepararsi bene al calcetto e intraprenderlo divertendosi. Perché non è uno scherzo prepararsi al calcetto, dottor Melegatti? Scherzo perché il calcetto è un'attività, come dicevo prima, impegnative, ci vuole abilità tecnica, perché è un gioco rapido, ci vuole velocità, ci vuole resistenza specifica, ma non solo, bisogna anche prendere delle decisioni veloci, bisogna avere una buona coordinazione. Tutto questo, insomma, non la voglio fare più grande di quella che è, ma se si sottovaluta il calcetto, ecco che, come dicevamo prima, arriva il problema. Certo, e quindi se dovete restare in panchina, chiamateci all'800 24 00 24 per capire con i consigli del dottor Melegatti se potete scendere in campo presto oppure dovete darvi magari alla bicicletta. Luigi dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho chiamato perché ho trovato delle similitudini. Sì. Io sono appassionato di calcio, ma non appassionatissimo. però sentivo che con la febbre dei mondiali la gente va a giocare a calcetto. Eh sì. A noi succede lo stesso, vediamo il Tour de France, vediamo il Giro d'Italia, parte in bicicletta, però sono abbastanza preparato, diciamo, anche se vado con i miei ritmi. Ma penso è una cosa bellissima, Luigi. Tra l'altro il dottor Melegatti è un appassionato anche di bici, sì. Ma mi sembra che tra chi va in bici e chi gioca a calcetto, insomma, ci siano delle differenze, non solamente di sport, ma solitamente le persone che vanno in bici sono preparati, si lasciano un po' contagiare dall'effetto del Giro d'Italia, sono già sportivi amatoriali con una certa preparazione alle spalle, o meglio sulle gambe. Dottor Melegatti, rispetto al calcetto, dove ci si lascia un po' trascinare anche dal piacere di stare con gli amici, esatto. No? La pizza, la birra dopo, le chiacchiere, poi oppure si va a calcetto con l'idea di buttare giù un po' di pancetta. Chiaro, l'aspetto ludico nel calcetto è prevalente, perché uno va, si diverte, sta con gli amici, poi c'è anche una grande dose di competitività, perché ci sono gli scontri uno a uno, oppure la squadra che vuole battere la squadra avversaria. Nella bicicletta l'approccio alla bicicletta è un po' diverso, esiste sempre competitività, ma in persone che fanno del ciclismo amatoriale per divertirsi, per andare in salita, insomma, l'aspetto ludico direi che non è preponderante. Ecco, bisogna fare fatica in bicicletta e bisogna prepararsi per questo e per veramente per sfruttare tutte le qualità, le doti positive della bicicletta. Intanto possiamo aggiornare la nostra parade, sì. Dimmi che cosa c'è di allora, nuovo. Prandelli non ha rivali. CT numero uno, è vero. Ci dice Katia. Mm-hmm. Paletta, che io non ho presente. Sì, com'è Paletta? Non lo so, chiedi a Laura. Dottor Melegatti, com'è Paletta? Non può chiedermi com'è Paletta. No, dicevo come giocatore. No, Laura Vanossi mi dice di no. Adesso lo cerco, adesso a me non viene in mente, lo cerco. Difensivo, biondo, con non tantissimi capelli, però insomma, mi pare che sia valido dal punto di vista. Però è così. Ancora tanti commenti su Pirlo, poi aspetta che c'era anche un'altra ascoltatrice che ci diceva che ce n'è un altro che non è al mondiale, ma Osvaldo non ha rivali. Osvaldo a me pure non viene in mente. Laura ne sa? Sì, ok. Laura dice ok. Dove andiamo? Andiamo alla provincia di Milano, dove c'è Ivar. Tanto stavo pensando alla smania di emulazione dei campioni. Anche rugby in qualche maniera è diventato un po' una moda recente, no? In Italia, e ha portato magari molte mamme ad iscrivere i propri bambini alle scuole di questo sport, che si ritiene peraltro un po' più non lo so, nei principi, anche se se ne danno di santa ragione, no? E il dottor Melegatti è un grande esperto anche di rugby. Mi dispiace, sembra che veramente io sia la sua PR, perché è esperto di calcio, della ginnastica da tavola ne sa, dottore. Quella delle ganasce, come la chiamo io, della mandibola, anzi. Meno. Allora, sentiamo Ivar. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dunque, chiamiamo perché a proposito proprio degli infortuni banali, come nel caso del fisioterapista di mondiali, che possono poi trasformarsi in catastrofici, perché appena subito una frattura alla spalla per una appunto banale caduta, una bella frattura scomposta che poi è stata operata, nonostante io abbia una vita sportiva, abbia fatto sport estremi dal paracadutismo alla ginnastica acrobatica, senza mai rompermi alcun osso, infatti lo dicevo, me ne vantavo quasi, ho parlato troppo presto. Non bisogna mai. La ginnastica acrobatica ha fatto anche Ivar? Anche ginnastica acrobatica, sì, tra le altre cose. Bello. E con una banalissima caduta sono riuscito a fracassarmi completamente la spalla. Questa è la cosa simpatica. Era pronta proprio. Era pronta la chiamata, probabilmente. E quello che volevo capire anche dal dottor Melegatti era se un recupero al 100% con una frattura così importante, ridotta su piastra, che adesso già dopo un po' di tempo di riabilitazione sto muovendo la spalla, però sento quanto è legata e dura, è possibile, esiste un recupero al 100% in questi casi? Se l'intervento chirurgico è stato fatto bene, vale a dire se l'allineamento delle ossa è stato fatto perfettamente, se i tempi biologici di guarigione sono stati rispettati, in un soggetto come lei, con tutto quello che ha fatto, con questa attitudine allo sport, io mi aspetto un recupero totale al 100%, lungo ma completo. Allora, 800 24 00 24, dottor Melegatti, lei si occupa soprattutto di sportivi veri, no? E, che, insomma, rispetto agli sportivi amatoriali c'è una bella differenza. C'è chi dice che la palla sia l'unica cosa che hanno in comune gli sportivi e chi gioca calcio e calcetto così per divertimento sia la palla, e poi le differenze siano davvero tante. Ne parliamo tra poco, subito dopo le informazioni sul traffico. Esatto, e anticipo già ai nostri ascoltatori, qualora fossero interessati a essere intervistati all'economia del Brasile, esattamente, possono dirci la loro all'800 24 00 24. Ci sono tante modalità per agganciare la crescita di questo paese, che è uno dei BRIC, questo acronimo che è stato costruito qualche anno fa da una grande casa di investimento. Cercheremo di capire qual è oggi lo stato di salute di questa economia. Peraltro, in occasione dei mondiali si è fatta una grande polemica, perché è un paese dalle mille facce, dalle mille contraddizioni, con un tasso di povertà ancora molto alto, per cui a tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati, oggi Cuore Denari vi sta portando inevitabilmente in Brasile. Fra poco parleremo anche con il nostro Dario Ricci, grande inviato di Radio 24 che sta seguendo i mondiali, appunto, e che tra poco sentiremo proprio in diretta. Ma ora, Nicoletta, tra un po', anzi, ti parlerò di denari, come ho anticipato. Parleremo della situazione economica del Brasile, che è cresciuto molto negli ultimi anni, ma è anche un paese con mille contraddizioni, per cui cercheremo di capire qual è anche la modalità giusta per cavalcare il trend economico brasiliano. E noi restiamo in Italia. Per chi vuole guardare il campionato, il mondiale, dalla sua comodamente dal divano, parleremo anche di questo, ma per chi si lascia un po' prendere, no, dalla voglia di, dal desiderio di emulazione, insieme al dottor Melegatti vogliamo dare alcuni consigli per partite di calcio e calcetto in tutta sicurezza. Dottor Melegatti, dicevamo che tra calcio professionistico e calcio amatoriale l'unica cosa simile è la palla, no? Tutto il resto è profondamente diverso, quindi occhio. Lei ha ragione perfettamente. I calciatori professionisti rappresentano una elite di atleti che ha avuto un percorso nella propria vita molto preciso, con allenamenti quotidiani, e poi sono persone che hanno un fisico particolare, quindi sono un po' dei predestinati, quindi hanno qualità fisiche, qualità anche motivazionali diverse. Ma, e poi non dimentichiamo il tempo che un calciatore professionista dedica alla sua attività, vale a dire gli allenamenti sono quotidiani, spesso sono due sedute di allenamento al giorno, quindi attenzione alla dieta, attenzione agli aspetti clinici, biologici, quindi certamente c'è una grande differenza, anche se la biologia poi è una per tutti, voglio dire, una distorsione di caviglia, certo, di Buffon è identica alla distorsione di caviglia, vedi, di Luca, di Padova, che ci ha parlato prima, quindi i tempi biologici di guarigione sono gli stessi. Dottore, prima di salutarla vorrei, dato che chi gioca spesso si strappa o ha, certo, degli stiramenti perché arrivano dei messaggi, non sono la stessa cosa, vorrei che lei ci aiutasse un po' a capirne di più, ma nello stesso tempo dare un consiglio a chi già l'ha subito, e giocherei anche d'anticipo, cosa fare per evitarlo. Certo, beh, intanto esistono molte classificazioni relative agli infortuni muscolari. Si parla di strappo muscolare quando si ha una importante rottura di fibre muscolari, quindi quando una gran parte di muscolo è rotto, mentre si parla di stiramenti quando invece una piccola parte di fibre muscolari è andata incontro alla rottura, o addirittura nessuna lesione muscolare è stata si è presentata. E cosa fare per evitarli? Naturalmente una buona preparazione è fondamentale, l'allungamento muscolare, lo stretching sia statico che dinamico è fondamentale per preparare proprio la flessibilità del muscolo, e poi anche la forza, non dimentichiamo che questo è un aspetto molto spesso tralasciato, ci vuole forza per prevenire gli infortuni, quindi esercizi regolari di rinforzo muscolari, e poi l'idratazione è fondamentale soprattutto in climi caldi, soprattutto in questo periodo dell'anno è fondamentale bere, idratarsi bene almeno mezz'ora prima di scendere in campo, bere almeno mezzo litro di liquidi e poi continuare a bere durante la partita e dopo la partita. Dottor Melegatti, io la ringrazio per essere stato grazie con noi. Noi adesso vogliamo in Brasile. Intanto ci sentiamo presto. Grazie e buona giornata. Buona giornata. E allora, Brasile, qualche anno fa, ti dico questa parola, Nicoletta, l'ho già anticipata prima, BRIC. È un acronimo, una sigla inventata da Goldman Sachs, dietro la quale si cela un raggruppamento di paesi ad alto potenziale di crescita. Brasile, Russia, India e Cina. Le chiamano e le chiamano ancora economie emergenti, ma in realtà sono economie belle che emerse. E siccome in occasione dei mondiali di calcio 2014 appunto siamo andati in Brasile, oggi ci sembrava così interessante fare un punto della situazione economica di questo paese. Ti leggo cosa scriveva qualche giorno fa sul Sole 24 Ore il nostro Roberto Darin. I mondiali potranno avere ripercussioni politiche in Brasile, che ha l'occasione di mostrare al mondo di essere una nuova potenza globale dopo più di un decennio di stabilità economica accompagnata dalla nascita di una nuova classe media. Circa 40 milioni di persone sono uscite dalla povertà in 10 anni, ma oggi il gigante latinoamericano rischia la cosiddetta trappola del ceto medio. Chissà cosa vuol dire, che implicazioni ha tutto questo? Allora ce lo facciamo spiegare da un'esperta di mercati emergenti, la dottoressa Claudia Segre, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grande tanghera, si può dire? Anzi, è un vanto. Sono tra di noi, eh? È no, un vanto. Questo per dire che non è che vivete solamente di pane, finanza, obbligazioni, mercati emergenti e quant'altro, dottoressa Segre. No, poi al di fuori anche delle sale operative si fa dell'altro, c'è una vita molto intensa per fortuna e anche bella interessante. Lei si tiene in forma così. Il Brasile, fra i soldi spesi per l'organizzazione di questo mondiale e i milioni di famiglie in condizioni di totale povertà, dottoressa Segre, è un paese a diverse facce, lo dicevamo prima, molte contraddizioni, ma si può ancora definire economia emergente? Perché leggo da alcuni rapporti che stiamo parlando della sesta economia del pianeta. Ma sì, oltretutto quello che lei citava come dato è un dato che dovrebbe essere confermato alla fine di quest'anno, in quanto effettivamente il Brasile in questo momento è la settima economia del mondo e passando a sesta vorrebbe dire che supererà il Regno Unito, quindi la Gran Bretagna. Una situazione veramente diciamo così di primo della classe per un'economia che è la più importante del Latin America. Però come sottolineavate ci sono dei problemi, che sono quello del rallentamento delle economie emergenti e il fatto che il Brasile ha dimezzato il suo tasso di crescita e quindi si trova in una situazione di una spesa sociale interna che ha visto accrescere le tensioni sociali, soprattutto a cavallo di questi campionati mondiali. Ecco, lei ha detto ha dimezzato la sua crescita, che cosa vuol dire? Perché anche la Cina sta rallentando notevolmente la sua crescita, ma parliamo ancora di tassi del PIL tra il 6 e il 7%, in Brasile è la stessa cosa? Qui stiamo parlando di tassi che si sono dimezzati, eravamo intorno al 5% fino a qualche anno fa e adesso siamo tra un 2,5% e un 3% e questo chiaramente anche se l'obiettivo è quello di avevamo oltre il 4% nel 2005-2010, il valore poco sopra l'1% del 2012 ha creato dei grossi problemi, quindi un rallentamento come nelle altre economie emergenti, ma particolarmente evidente in Brasile perché dopo il boom del periodo Lula adesso si trova in una situazione dove a ridosso delle prossime elezioni l'attuale presidente con questi mondiali si gioca molto della sua credibilità e già si è giocata molto nel consenso popolare. L'indice di borsa brasiliano si chiama Bovespa, come sta andando, dottoressa Segre, come sta andando anche il mercato obbligazionario? Perché ho letto che il governo brasiliano scoraggia con una tassazione molto alta l'investimento su obbligazioni a brevissimo termine, perché? Ma è questo perché come un po' in tutti i paesi cerca di proteggere la parte a breve della curva che è quella sulla quale il paese va a rifinanziarsi molto più di frequente ed è sottoposta all'andamento volatile dei tassi di mercato, quindi si cerca di proteggere da questi scostamenti molto evidenti la parte breve per cercare di spostare gli investimenti di portafoglio sul medio e lungo termine e farli permanere nel paese. D'altronde i tassi reali brasiliani a livello obbligazionario sono molto interessanti e la borsa ha sovraperformato oltre la doppia cifra quest'anno e soprattutto negli ultimi mesi grazie a questa aspettativa dei mondiali. Ottimo. In questo momento chi pensa al Brasile pensa ai mondiali e al calcio, ma dottoressa Segre, in realtà quando io e Deborah ci fermiamo per la nostra pausa caffè pensiamo al Brasile anche perché questo mercato è molto ricco, mi piacerebbe sapere come va questo mercato. Ma forse il primo produttore mondiale ancora di caffè il Brasile, dottoressa Segre? 5 secondi? Purtroppo no, perché abbiamo una concorrenza col Vietnam tremenda che ha portato via parecchie delle fette di mercato del Brasile. Hai visto, adesso penseremo al Vietnam. Grazie, grazie molte Claudia Segre, buona giornata. Cuore e denari. Sono italiano, e beh! Con me sta bene! Ciao! Ed eccoci ritrovati in diretta. Nino Manfredi, nel film Pane e Cioccolata, si trova a guardare la partita Italia-Germania in Svizzera in un pub pieno di tifosi tedeschi. Lui non resiste all'esultanza, ma l'ambiente non è certo dei più accoglienti. Speriamo che invece voi sabato abbiate potuto seguire la partita della nazionale in una situazione, diciamo, più favorevole. Raccontateci dove l'avete vista, con chi magari, quali portafortuna avevate con noi, qualche cornetto rosso, non so che cosa, e diteci se l'appuntamento mondiale di sabato sera vi ha fatto venire voglia di abbonarvi ad una Pay TV per seguire i mondiali, ma magari più probabilmente, visto che forse è un po' tardi, che qualche partita ormai è già andata, i prossimi campionati italiani di calcio, il prossimo campionato italiano di calcio, tra poco ne parleremo. Sì, vi stiamo raccontando i mondiali a modo nostro. Il nostro prossimo ospite è Deborah Turidi, non è che poi ci interroga, perché lui è un tipo un po' particolare. Magari sul fuorigioco. Speriamo di no. Qui siamo noi a giocare in casa e quindi sarà lui che dovrà rispondere alle nostre domande. Però siamo ben contente di avere con noi a Cuore Denari. Lo abbiamo fatto veramente alzare presto, ma in questi giorni in Brasile non si dorme. Dario Ricci, inviato di Radio 24 ai mondiali del Brasile. Non ho detto la città da dove sei, perché non sono proprio sicura che tu ti sia già spostato dopo Manaus. E Dario, che ti sia già svegliato. Ecco. Dario, facci sentire se sei sveglio. Buon dia da Itacurusa, che è la mia base logistica qui, è un paesino sperduto tra Rio e Mangaratiba, che è il luogo del ritiro della nazionale, quindi sono a un centinaio di chilometri da Rio de Janeiro, quindi siamo tutt'altra atmosfera rispetto a Copacabana e Ipanema. Hanno attrezzato però una buona sala stampa, Dario, oppure sei in difficoltà? No, in Casa Azzurri abbiamo tutte le possibilità per lavorare bene. Devo dire, qui anche il wireless finora funziona bene, regge, ogni tanto i telefoni fanno degli scherzi, ma qua in Brasile è cosa comune, quindi ci adattiamo alle esigenze del luogo. Allora Dario, dalle Olimpiadi in Cina qualche anno fa, adesso in Brasile, diciamo che le economie emergenti te le stai visitando tutte. Sì, assolutamente sì, è anche uno dei motivi interessanti di queste esperienze, di queste trasferte, perché è la logica che poi per alcuni aspetti è anche discussa e discutibile, ma che le grandi organizzazioni come FIFA e CIO stanno scegliendo per ospitare questi grandi eventi. Del resto queste economie emergenti, come sottolineate da studio, finora sono quelle che si stanno dimostrando in grado di farci carico dei costi mastodontici di queste organizzazioni, e in futuro in realtà questo andazzo cambierà, perché abbiamo visto le proteste anche qui in Brasile, infatti, in Cina ben pochi sono più disposti a sobbarcarsi questi costi. Ne abbiamo parlato anche prima della nostra pausa con un'esperta di mercati emergenti, Nicoletta. Senti, volevo chiedere, perché anche con Deborah ci siamo un po' interrogate, ma sai che qui sei tra donne e un po' di cose ce le devi spiegare. C'è questo spray che viene utilizzato per segnare le posizioni quando vengono tirati i calci di punizione, ad esempio. È una novità del mondiale oppure c'è sfuggita? Magari veniva già utilizzata in occasione di altre partite? È stata un'idea che la FIFA ha ripreso dal calcio sudamericano, perché già da qualche tempo in Sud America si utilizza questo metodo, e devo dire che è stata un'istituzione felice, secondo me, perché da un lato rende visibile ai giocatori e agli spettatori la famosa distanza, insomma, della barriera, poi soprattutto rende un pochino più rapido questa prassi del posizionamento della barriera stessa, perché il giocatore c'ha quella linea, sa che se la supera chiaramente l'arbitro lo vede, quindi c'è un riferimento netto e quindi si discute un po' di meno, si gioca un po' di più. Quindi, poi ecco, lo spray è innocuo per il manterbuso, dopo un po' avete visto la linea si cancella da sola, sì, quindi come per magia. E poi invece c'è anche la dimostrazione tecnologica del gol che ieri sera abbiamo visto proprio per Francia-Honduras o Honduras-Francia, non so quale squadra debba essere detta per prima, Dario, però ecco questa novità che ha fatto grande clamore, che cosa vuol dire? Vuol dire tanto, tra l'altro vi trovo preparatissima, avete messo le mani avanti, ma invece vedo che... No, abbiamo copiato, dai. No, devo dire che questo gol tecnologico, chiamiamolo così, è stato discusso per anni dalla FIFA, e tra l'altro devo dire il progetto attualmente in uso è una tecnologia tedesca che ha battuto tra non poche discussioni una tecnologia messa a punto dal CNR italiano attraverso la sua spin-off di Bari che pure sembrava forse anche più efficace e affidabile. Detto questo, è chiaro che è uno strumento per evitare quelle discussioni sul gol non gol. Per esempio in Sudafrica 2010 un gol netto e non assegnato era stato decisivo nella vittoria della Germania sull'Inghilterra, e quindi è chiaro che c'è la necessità almeno su quel punto di avere chiarezza, perché un gol marcato è parte essenziale del... Allora, diciamo che Dario, possiamo dire che anche chi rimane a casa a guardarla in televisione, la partita ha l'opportunità di andare proprio ad analizzare ogni microscopico dettaglio. Non è poi vero che appunto da casa si perde tutta la magia, le sfumature, eccetera. Mi stavo chiedendo, poi ti lasciamo, quanti italiani sono venuti a vedersi, secondo te, magari c'è anche qualche stima ufficiale, le partite appunto in Brasile, quanti rimarranno per tutta la durata di questa competizione, magari sperando che l'Italia continui ancora ad andare avanti in questa marcia, Dario? Parlavamo qualche giorno fa con l'ambasciatore italiano, diciamo che ufficialmente per ogni partita dell'Italia ci sono circa 1500 biglietti acquistati da italiani provenienti appunto qui per vacanze. Biglietti che costano quanto, sempre per parlare di denari? Vi rimando alle varie categorie di prezzo sul sito della FIFA. Sì, infatti abbiamo visto che si può arrivare anche a 700 euro, per poi non parlare di tutto il mercato parallelo secondario, che non è, diciamo, però rimaniamo a quello della FIFA, si va da un centinaio a 700 euro. E quindi in quanti, Dario, sono là? Ti ho detto, per le partite dell'Italia queste sono le stime, intorno ai 1500, però in realtà il tifo per l'Italia è molto più ampio, perché un po' perché sono 25 milioni di oriundi brasiliani, cioè le persone che hanno origine italiane e quindi vedono la nostra nazionale con grande simpatia, un po' perché anche il calcio, il tipo di gioco che sta proponendo la nazionale di Prandelli, con alcuni dei suoi giocatori simbolo come Pirlo, bene, è visto nel solco della tradizione brasiliana, quindi è veramente ben voluto e ben apprezzato dai tifosi brasiliani. E poi perché noi siamo irresistibili, Dario, di la verità, siamo i migliori. Sì, sì, sempre stata amatissima la nazionale italiana. Finché non incrociamo il Brasile, ci saranno tutti per noi. Dario, divertiti, buon lavoro, anche se in realtà sta lavorando tantissimo Dario, perché qua non c'è orario ragionevole che tenga, lo disturbiamo in ogni momento della giornata. Grazie, buon lavoro. Un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Dario. E a proposito dei tanti strascichi di questo mondiale, capita che sia proprio in queste occasioni, ne abbiamo parlato a lungo nel corso della trasmissione, che molti scoprano la passione per il calcio, e allora o ci si cimenta nella partita di calcetto con tutti i dolori che ne derivano, certo, oppure qualcuno si accontenta appunto di rimanere sul divano e magari si arricchisce un po' tutto il panorama degli abbonamenti alle televisioni in questo periodo, e questi mondiali possono contribuire ad aumentare il numero dei tifosi e anche il business degli abbonamenti televisivi per seguire tutto l'anno le prestazioni della squadra del cuore. Andrea Biondi, il Sole 24 Ore, bentornato. Buongiorno, bentornato. Non ti abbiamo mai invitato, adesso nel giro di 2 settimane due volte, ma che sarà questo segno? Deve farci compagnia spesso, Andrea. Assolutamente sì. Infatti, un talento che era lì, è rimasto al sole. Senti, no, a parte tutti gli scherzi, qual è la situazione per i mondiali in televisione? Quali partite sono in chiaro e quali invece bisogna vedere a pagamento e soprattutto quanto costa? Perché sappiamo che alcuni abbonati Sky non sono proprio tanto contenti. Alcuni abbonati Sky non sono stati tanto contenti di scoprire che il loro abbonamento Sky Sport o Sky Calcio non era sufficiente di per sé a vedere le partite dei mondiali. Perché allora il discorso è questo: i diritti TV sono stati acquisiti a suo tempo, mi pare nel 2005, dalla Rai e poi sono stati rivenduti a Sky. Sky ha tutte 64 le partite in esclusiva. Mi correggo, tutte 64 le partite visibili, 39 in esclusiva, altre sono diciamo visibili anche sulla Rai. La Rai quindi ha una parte di match che possono essere in qualche modo trasmessi e che vengono trasmessi. Chi è abbonato al solo pacchetto Sky Sport o Sky Calcio per vedere i mondiali deve acquistare il cosiddetto pass mondiali a 59 euro una tantum, forse anche diciamo per è una tantum, vedo Nicoletta che fa un che fa il calcolo di casa sua, perché Carlo se l'è perso questo oppure se l'è acquistato? No, guarda, noi vediamo tutto allo stadio con l'abbonamento, a casa con Sky, incrociati col vicino, e questo farà felice correre dietro all'Inter, questo dobbiamo dirlo, che Carlo è un tifoso interista nerazzurro. E questo farà felici i broadcaster Sky nella fattispecie. Dicevo che comunque anche forse per ingolosire o per placare il malcontento che si è manifestato prontamente in rete, il pass mondiali dà anche la possibilità di godere da subito e mi pare fino al 24 di agosto dell'intera programmazione di un pacchetto a scelta fra Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. Alla scadenza la visione poi si interromperà automaticamente. Certo. Senza allora, visto che hai sollevato, che è stata sollevata su internet non solo questa polemica degli abbonati Sky, andiamo a girare il coltello nella piaga con Aldo. Con Aldo che ci chiama da Sassari. Vedi, l'ho lasciato dire a te. Sassari. No, Aldo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Come dici, sono abbastanza arrabbiato per questa situazione, perché io contavo di vedermi i mondiali. Io non ho il pacchetto calcio, ho solo il pacchetto sport, o meglio, ho tutto tranne il pacchetto calcio, perché quando mi guardo la Champions e le solite cose è sufficiente. La cosa che mi dà fastidio è la presa in giro, comunque la prepotenza di oscurare un canale che è il 201, che è il canale per antonomasia dello sport, diciamo così, no? Quindi ho scritto una contestazione a Sky dicendo appunto che non sono assolutamente d'accordo, che io ho un pago Sky da diversi anni, spendo 57 euro al mese perché ho tutto, doppio Sky, tutto quello che mi serve, e non vedermi i mondiali mi è dispiaciuto molto. Diciamo che adesso li trasmettono anche sul canale 201, perché quelle in chiaro le stanno trasmettendo, però visto che non me le posso vedere come le vorrei vedere, me le guardo sulla Rai, così almeno guardo gli sponsor della Rai, visto che pago il canone. E niente, Aldo, però queste contestazioni purtroppo avvengono solamente nel momento successivo alla sottoscrizione ormai di un mare di abbonamenti, per cui sì, Andrea, ti stavo chiamando Danilo, non chiedermi per quale motivo mi veniva in mente lapsus questo. Freudian. Devo dire ti piace, sarebbe piaciuto chiamarti Danilo. Danilo, non male. Non ha la faccia da Danilo. Allora, insomma, però Aldo è in buona compagnia, ce lo dicevi anche tu. Detto questo, secondo te quanti nuovi sottoscrittori invece di abbonamenti per il calcio ci saranno a partire dal prossimo settembre? Anche se in realtà poi il campionato italiano di calcio inizia sempre prima, perché sappiamo che ormai si gioca 12 mesi l'anno, ma secondo te, insomma, questa magia da mondiali si trasferirà anche, si tramuterà anche in abbonamenti? Vabbè, banale dirlo che dipenderà anche un po' dal risultato, dal prosieguo e da come andranno le partite in questo mese. Devo dire che il calcio è abbastanza seguito in Italia, sia Sky sia Mediaset Premium hanno delle offerte per vedere il campionato di calcio, che diciamo sono anche nella fattispecie non propriamente a buon mercato. Magari possono essere effettivamente un po' troppo troppo, considerate un po' troppo costose, però devo dire che ultimamente stanno facendo anche delle promozioni e in qualche modo si riesce a garantire una visione di queste cose. Allora, ne hanno dette un po' per Sky, ma per par condicio adesso ce n'è anche per la Rai. Andiamo a Gaetano che ci chiama da Pescara. Esatto. Buongiorno e benvenuto. Con una sola S. Quindi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fino a Pescara ce la faccio. E l'altra, che è andare in Sardegna, che è un po' difficile per me. Buongiorno. Buongiorno, eccoci. Sì. Sì, vado. Niente, volevo appunto... Sì, vado, è carino. Vada, Gaetano. Sì. Volevo ripercorrere, si può dire, l'intervento del precedente ascoltatore a grandi linee, però volevo, ecco, magari forzare ancora la mano, se possibile, la polemica sulla RAI, alla quale dobbiamo pagare il canone obbligatoriamente, e poi in pratica, anzi, quest'anno hanno fatto anche così il vantaggio che non hanno aumentato, non hanno il aumentato canone. Il balzello, però hanno tolto un po' di mortadella dal panino praticamente, perché non ci fanno vedere neanche più una gara di Formula 1, non possiamo vedere le partite. Io ho anche un abbonamento con un'altra pay TV, però ugualmente la situazione è la stessa, avrei dovuto pagare un pacchetto aggiuntivo. Non infatti, insomma, fare. Gaetano, per vedere quindi tutto... Con due abbonamenti praticamente io vedo quello che mi passa il convento e la cosa va assolutamente bene, visto che poi magari gli emolumenti di certi personaggi della RAI, piuttosto che ecco, qualche presentatore... Polemica vecchia, Gaetano, lasciamola correre ormai e niente, accontentiamoci di quello che abbiamo, nel senso che facciamo il nostro dovere di consumatori, se riteniamo che tutto questo stia diventando un po' insostenibile, sì, non facciamo gli abbonamenti, punto, poi in qualche maniera faranno. Andrea, ci mancano 40 secondi di tempo, ma magari un commento sulla partita aperta per i diritti TV. Che cos'è questa partita, che cosa vuol dire per i consumatori? Quella è una partita sulla quale Sky e Mediaset hanno affilato ben bene le armi e in qualche modo dovrebbe avere un primo step, forse si dovrebbe arrivare a conclusione il 23 di giugno, pare che il 23 di giugno, cioè lunedì prossimo, ci sarà l'assemblea di Lega che in qualche modo dovrebbe ratificare i risultati dell'asta, l'asta alla quale hanno partecipato Sky, Mediaset, ma anche Fox, che fa parte sempre di 21st Century Fox, che è il gruppo Murdoch, e Eurosport. C'è una grossa polemica perché, ecco, senza farla troppo complicata, diciamo che era stata decisa la vendita per pacchetti e Sky avrebbe presentato l'offerta migliore sia per il pacchetto A che per il pacchetto B, che sono i due pacchetti più pregiati per satellitare e digitale terrestre, mentre Mediaset avrebbe vinto diciamo l'altro pacchetto, quello delle 12 squadre. E insomma, quindi, diciamo che il 23 sapremo qualcosa in se più. Se ratificassero questa cosa, in qualche modo il calcio si vedrebbe quasi esclusivamente su Sky, le partite migliori su Sky. Per sintetizzare, questa è la situazione. Insomma, diventa difficile anche essere tifosi. Esatto. Oh no, Andrea? Assolutamente sì. Che fatica. Allora, ma noi ci sentiamo domani. No, io non ci sono domani, ricordatelo, che ti lascio sole in balia dei nostri ascoltatori che ti tratteranno come una regina, come sempre. Allora, domani senza Deborah con Nico, ma Deborah ritorna subito dopo mercoledì e di nuovo con noi. Buona giornata. Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Vi ha presentato Cuore e Denari.